Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera gentili ascoltatori, anche se non è tanto una buonasera. Le borse vanno malissimo oggi, decisamente malissimo. Il FTSE MIB si sta avvicinando in questo momento ad una perdita del 6%, il FTSE Share cede il 5,62%, anche Francoforte lascia giù il 5,5% in questo momento, Wall Street 4 punti percentuali sul Dow Jones o poco meno. Il Nasdaq perde un 4,5%, lo Standard & Poor's 500 il 4,2%. Questa la situazione sotto pressione. Tutti i titoli bancari. Per darvi una misura, Société Générale a Parigi cede l'11,8% in questo momento, Commerzbank a Francoforte il 9,99%, 10 punti percentuali, a Londra Barclays giù dell'11,18% e Royal Bank of Scotland del 10,02%, e ancora l'America con Citigroup giù dell'8,9%, Bank of America dell'8%. Questo è il quadro della situazione. Morgan Stanley giù del 7,17%. Sarà naturalmente tutto questo al centro di questa puntata di Focus Economia, in apertura e poi a seguire. Avremo anche uno spazio dedicato alle misure per contrastare questa crisi, quelle che dovrebbero essere le misure per contrastare questa crisi. Oggi ci concentreremo su una cosa in particolare, su un elemento in particolare, questa proposta che è arrivata dalla Lega, dal leader della Lega Umberto Bossi, di rimettere il TFR nella busta paga dei cittadini. Sentiremo un esperto del sistema pensionistico proprio per capire se ha un qualche significato la cosa. Naturalmente il 349-238-6666 il numero per intervenire in diretta via SMS. Naturalmente le notizie in breve di oggi. Questo scenario che alcuni, ormai ci sono molti che lo dicono apertamente, che alcuni giudicano pre-recessivo o addirittura recessivo, insomma con possibilità di una nuova recessione, naturalmente succede quello che sempre succede in questi casi. Ossia che l'oro tocca nuovi record a 1829,40 dollari l'oncia. Chissà su questo anche quanto ha giocato la decisione annunciata ieri dal Venezuela di Chavez di nazionalizzare l'oro e le riserve di oro. Considerate che Venezuela sembra poca cosa, è comunque il 15° paese del pianeta per riserve auree. Però naturalmente pesa anche molto l'avversione al rischio. Per quanto riguarda il petrolio, anche questo è un altro aspetto che si verifica sempre in questi scenari, è in calo in apertura a New York del 3% ad 85 dollari al barile. La benzina resta fissa sopra l'1,6 al litro, non vi preoccupate, che è il 3% in più rispetto a luglio del 2008. I dati dall'America: il superindice economico è salito dello 0,5% dopo il più 0,3 di giugno, ma come avete sentito non ha confortato un granché i mercati questo. Mentre è crollato l'indice Fed di Filadelfia, che serve a monitorare l'attività del comparto manifatturiero nel distretto orientale americano. Letteralmente sprofondato, meno 30,7 punti dopo il più 3,2 di luglio. Giù anche le vendite di case esistenti del 3,5%, quando le previsioni indicavano un aumento del 2,7%. Salgono anche i sussidi di disoccupazione di 9.000 unità a 408.000. Gli economisti avevano stimato un incremento di appena 1.000 unità. Sopra le stime anche l'inflazione, un rialzo mensile dello 0,5% dopo il meno 0,2% di giugno, dato superiore alle attese degli analisti che avevano stimato un più 0,2%. Nel frattempo, il rendimento dei titoli di Stato americani, come quello di tutti i titoli obbligazionari, si muove in senso inverso rispetto alla richiesta. Che cosa è successo? Che sono scesi per la prima volta i titoli Treasury americani a 10 anni sono scesi per la prima volta sotto il 2% di rendimento. Il minimo toccato è 1,978 per l'esattezza. Per quanto riguarda invece i titoli di casa nostra, si è allargato oggi di nuovo lo spread tra BTP e Bund, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. La misura è quella sui titoli a 10 anni, è arrivato oltre i 290 punti, hanno 290,3 per essere esatti, con un tasso di rendimento per i titoli di Stato italiani del 4,96%. Si sono mossi in parallelo, praticamente in maniera quasi identiche ai titoli di Stato spagnoli, bonus spagnoli, lo spread con i titoli tedeschi è a 292,2. Interessante la notizia arrivata dal New York Times, secondo la quale gli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'inchiesta sull'agenzia di rating Standard & Poor's per accertare se il colosso del rating abbia assegnato giudizi impropri a decine di titoli garantiti dai mutui negli anni precedenti alla crisi finanziaria. Ovviamente c'è chi ci vede un retroscena politico, perché Standard & Poor's è l'unica tra le tre grandi agenzie di rating che ha abbassato il suo giudizio sul debito americano, quindi il fatto che l'inchiesta parta solo su di loro viene giudicato appunto un segnale politico da alcuni, Nel frattempo si apprende che, sempre da oltreoceano, la Federal Reserve avrebbe messo sotto osservazione le filiali delle principali banche europee negli Stati Uniti. Sempre secondo il Wall Street Journal, nelle ultime settimane, con l'aggravarsi della crisi del debito, si sono susseguiti gli incontri tra i vertici della Fed, appunto, e quelli delle filiali bancarie europee, e poi naturalmente con i vertici delle autorità nazionali di vigilanza di molti paesi del vecchio continente. Dice nel frattempo il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy che non c'è una recessione in vista e che comunque ci vorrà del tempo per ristabilire la fiducia. E bisogna dire che di tempo l'Europa se ne prende, perché la Commissione europea si è appreso oggi che predisporrà per inizio ottobre la sua proposta sulla tassazione delle transazioni finanziarie. E veniamo al primo tema di giornata, che sono giusto appunto i mercati. Ci arriva qualche domanda al 349-238-6666 sulla manovra, ne parleremo più avanti, oggi parleremo solo di TFR. Tenete presente però, nel frattempo, questo ve lo possiamo dire, visto che ci fate domande su quest'ipotesi di nuovo scudo fiscale, che questa ipotesi oggi è stata smentita dal ministro per la semplificazione Roberto Calderoli. Ora non sappiamo, perché notizie dal lato della manovra e delle modifiche alla manovra ne continuano ad arrivare da più parti politiche, disegno a volte completamente opposto. Avremo chiarezza quando inizieranno i lavori parlamentari, che, come vi abbiamo detto ieri, inizieranno con calma, per carità, la settimana prossima la commissione e poi l'aula convocata per l'inizio di settembre. Veniamo alle borse dunque, siamo in peggioramento, meno 6,20% per il FTSE MIB, meno 5,88% per il FTSE All Share, l'America anche va malissimo, il Dow Jones c'è del 4,11%, il Nasdaq è il 4,71%, Francoforte c'è dei 6 punti percentuali, giù tutte le banche come sempre. Maximilian Cellino del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E buonasera a Claudia Segre, segretario generale di Assion Forex. Grazie per essere buonasera. Con noi, buonasera. Allora, veniamo a questa nuova, ennesima giornata campale di queste settimane e partirei da lei, Segre. Come se la spiega? Ma diciamo che dopo le giornate altalenanti che hanno preceduto questo ulteriore giovedì nero, certamente le notizie che sono arrivate, che sono state pubblicate sul Wall Street Journal, hanno aggiunto la preoccupazione della liquidità e quindi un ritorno a uno spettro di liquidità come abbiamo visto nel periodo del 2008, che ha bloccato sostanzialmente quello che poteva essere un minimo recupero da parte delle quotazioni, soprattutto delle banche europee. A parte questo, ovviamente si è aggiunto un diffuso pessimismo sui dati che in effetti hanno confermato le previsioni peggiori e certamente questo bilico verso la recessione che continua a essere richiamata dallo spettro degli investitori sia sull'ambito azionario che obbligazionario. Le chiedo di sbilanciarsi, è un bilico o ci siamo? Ma per quelle che sono anche le definizioni del Fondo Monetario Internazionale, per un paese sviluppato questi dati e questi livelli di crescita economica sono a recessione. Chiaramente poi qui è una questione di lana caprina l'uno con l'altro, soprattutto analisti americani che si fronteggiano nel dire che ci siamo quasi ma non ci siamo ancora, però di fatto un dato del Philadelphia Fed che ci riporta esattamente al dato del minimo del 2008 è abbastanza eclatante per quelli che ne sono gli effetti, soprattutto in termini di scenario. Sì, poi una scossa di oltre 30 punti nel giro di un mese, no? Quindi no. Sì, però è una scossa che segue tutta un'altra serie di dati che certamente dalle case fino a livelli occupazionali comunque non vanno in una direzione diversa che quella di una crescita sostanzialmente assittica. Con Maximilian Cellino iniziamo anche a vedere qualche dettaglio in più. Sei riuscito a capire qualcosa, Maximilian, dal lato dei volumi? Perché anche questo è un tema interessante, insomma. Quando i volumi scarseggiano è chiaro che questi movimenti sono più forti, più energici. Ma fino a qualche minuto fa erano stati scambiati 800 milioni di euro a Piazza Affari, che sono tanti e sono pochi, nel senso che la settimana scorsa, che tutti ricordiamo, ai noi si è arrivato a scambiare anche 2 miliardi a seduta, però quindi sembrerebbero un po' meno, insomma, sembrerebbero volumi un pochino più limitati, però se confrontiamo questa seduta con una qualsiasi di uno dei mesi di agosto degli anni passati, troviamo che siamo a volumi più del doppio rispetto ad allora. Da quello che si dice nelle sale operative, sono tutti ben piazzati di fronte agli schermi in questi giorni e non potrebbero farne a meno, penso. Naturalmente, e evidentemente ce lo chiedono già gli ascoltatori, ma è una domanda che comunque ti avrei girato. Evidentemente la decisione della Consob, come di altre autorità borsistiche, di bloccare le vendite allo scoperto su una serie di titoli, efficacia praticamente zero a questo punto. Beh, l'annuncio ha sempre un po' un minimo di efficacia, poi all'atto pratico non è la prima volta che succede questo, insomma, l'annuncio, i mercati si placano, non soltanto per questo, perché ci sono stati anche altri annunci importanti la scorsa settimana che hanno contribuito a placare i mercati, e poi quando la situazione diventa tesa, e oggi diventa tesa perché ci sono messi numerosi motivi a scatenarsi contro le borse, voi li avete ricordati in precedenza, i dati macroeconomici, le tensioni sul funding delle banche europee. In più ci aggiungo qualcosa che probabilmente è passato un po' inosservato, perché ci sono state dichiarazioni di due membri della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, due membri cosiddetti dissidenti, che non sono granché d'accordo con la politica espansiva di Ben Bernanke, e questi due membri sono Charles Plosser e Richard Fisher, che in questi due giorni, tra ieri e oggi, hanno rilasciato le interviste dicendo che non è la politica giusta e che il mercato non si deve aspettare che la Fed tenga a galla le borse come ha fatto negli ultimi tempi. Ora, siccome, ricordo, facciamo un passo indietro una settimana, era stata proprio la Banca Centrale Americana di Washington a dire che avrebbe tenuto i tassi bassi fino a metà del 2013 e aveva lasciato aperta la porta a nuove misure di stimolo straordinarie, il cosiddetto quantitative easing, detto in gergo tecnico. Adesso i mercati, insomma, ci avevano creduto, e allora avevano creduto e avevano anche ripreso un po' quota. Adesso, se si trova che questi dissidi interni sono particolarmente elevati, è chiaro che in una giornata come questa tutto può venire giù, ecco. Naturalmente, le chiedo conferma, Segre, alla fine questa decisione di bloccare le vendite allo scoperto, visto lo scenario che abbiamo raccontato fino adesso, a poco serve, insomma, cioè non è, come dire, non è nemmeno quasi una critica alla Consob, cioè come dire, tanto lo scenario è quello che è, quindi puoi bloccare quello che vuoi, la gente vende comunque. No, infatti bisogna dire che tecnicamente sono scattati dei margini e questi hanno provocato le ulteriori vendite. La situazione è che vi sono anche parecchie mani forti che sono un po' ai limiti con gli stessi margini. Logicamente c'è poi, al di là di tutto l'effetto del trading algoritmico e quello che si vuole comprendere con tutto quello che è il fast trading in generale, però in questo momento ci sono dei volumi che confermano una tendenza inequivocabile. Bisogna poi dire che, come abbiamo ricordato prima, lo spettro di questa seconda gamba di recessione sta coinvolgendo il dibattito sia in Europa che in America e questo non aiuta certamente a riprendere gli investimenti o a mettere nuova liquidità sui mercati. Ci chiedono gli ascoltatori via SMS cosa intende per mani forti. Mani forti intendo quei real money, quindi quei grossi fondi, mutual fund o comunque tutti coloro che fino adesso avevano liquidità data dalle quote di sottoscrizione che gli permetteva di entrare sui mercati sia azionari che obbligazionari, ma che a causa dei deflussi di capitale, dalle dismissioni di quote di capitale sui fondi, come abbiamo visto l'ultimo dato molto critico, è chiaro che costringono a causa dei margini a chiudere le posizioni e dismettere le posizioni stesse. In questo quadro ci chiedono molti ascoltatori, come sempre, questa la questione della politica degli annunci e di quello che sta emergendo dalle varie riunioni europee, vedi quella tra Merkel e Sarkozy di ieri l'altro, vedi quello che vi dicevamo poco fa, ossia questo Consiglio europeo che si svolgerà in ottobre addirittura, tra un mese e mezzo. Guardate cosa stanno facendo le borse oggi, è un segnale abbastanza significativo. L'impressione poi, mi sembra, Segre, dei mercati è che la politica nel suo complesso, non solamente quella europea poi alla fine, ma anche quella americana, effettivamente non sappia rispondere a tutto questo. Sì, io vorrei far notare una cosa, che proprio il Consiglio d'Europa, quindi ricordiamo Commissione Europea e Unione Europea, 17 paesi dell'Eurozona, comunque racchiuso sui paesi di Eurozona. Il Consiglio d'Europa è un consiglio allargato con più di 47 paesi e fra questi vi sono paesi come l'Inghilterra che si sono sempre rifiutate di fare la riforma o comunque tutte quelle norme che regolano gli attacchi speculativi come quello che stiamo vivendo e quindi le regole sui CDS sovrani, le regole sugli hedge fund, le regole sul trading algoritmico, i cosiddetti high frequency traders. Quindi diciamo che il Consiglio d'Europa è come un macigno che blocca di fatto un'azione della Commissione europea e della stessa Unione europea che dovrebbe chiaramente essere più puntuale, più veloce, come vediamo anche solo per l'attivazione del meccanismo dell'FSF per gli Eurobond. Sì, quello che dico è che quindi poi al di là di questo c'è una certa lentezza della politica a rispondere. Certo, infatti il problema è proprio che quando la politica incappa o comunque blocca il naturale svolgimento delle attività di mercato e le condiziona addirittura come sta succedendo negli ultimi mesi, è chiaro che questo viene percepito in maniera estremamente negativa dagli investitori che scappano dai mercati. A questo punto, quali sono le mosse possibili? Qua inizio a virare la domanda a Maximilian Cellino e poi ritorneremo da lei. A questo punto chi si può muovere? Visto che i governi sembrano sostanzialmente immobili o si possono muovere solo per quello che è di loro stretta competenza, ossia banalmente decisioni politiche come può essere una manovra in stile italiano o come possono essere delle decisioni prese da un Consiglio europeo che però ci sarà tra un mese e mezzo. Gli unici che possono agire di fatto sono le banche centrali, sostanzialmente. Della Fed qualcosa abbiamo detto, la BCE a questo punto non sarebbe il caso che intervenisse sui tassi, visto che la stessa Claudia Segre un attimo fa ci diceva alla fine qua si sta ripresentando un problema di liquidità. Allora, la BCE non interverrà sui tassi, poi magari mi smentirà a breve, ma smentirebbe molto se stessa. Non interverrà sui tassi nei prossimi mesi, anzi, se si doveva fare il conto un mese fa, probabilmente bisogna mettere in conto ancora un rialzo da qui a fine anno e probabilmente uno all'estate prossima. Adesso le previsioni sui tassi si sono ribaltate, però noi non dobbiamo dimenticare che la Banca Centrale Europea per primo ha un mandato non tanto sulla stabilità del sistema, è chiaro, del sistema finanziario sta a cuore, ma un mandato di controllo dell'inflazione. Questa inflazione in questo momento ancora non ha abbassato la testa. È difficile che, se l'inflazione non abbasserà la testa, vedere la BCE che torna e fa un passo indietro, una marcia indietro così clamorosa, che ricorda per certi versi, anzi speriamo non la ricordi, quella del luglio 2008, perché la Banca Centrale Europea a Francoforte, ricordiamoci che due mesi prima del fallimento di Lehman e dello scoppio della crisi finanziaria, aveva alzato i tassi allora dal 4 al 4,25%, adesso l'ha fatto dall'1 all'1,5% negli ultimi, da aprile in poi. Qualcuno ha fatto notare che poteva aver fatto il passo più lungo della gamba a Francoforte. Francoforte è in Germania, la Banca Centrale Europea ha un forte spirito tedesco, insomma, dal punto di vista della politica monetaria, sono molto ferrei. La Germania aveva bisogno di un rialzo dei tassi, forse gli altri paesi no, e Trichet e gli altri banchieri hanno fatto questa mossa. Adesso staremo a vedere. Non bisogna dimenticare poi che per intervenire a favorire la liquidità delle banche, la BCE lo sta già facendo e lo può fare con altre mosse che sono diverse, insomma, meno canoniche rispetto a quella del tasso di interesse. Lo ha fatto dando denaro a quantità limitato alle banche europee e continua a farlo, ha esteso le sue aste straordinarie. Lo ha fatto, e questa è la cosa di ieri, continuando a dare anche dollari alle banche centrali europee che lo chiedono. Ieri, e torno al discorso di prima, una banca europea ha chiesto 500 milioni di dollari, non avveniva quel tipo di asta, non veniva movimentata dal febbraio scorso, e questo ha cresciuto le illazioni. La Banca Centrale Europea non ce lo dirà mai, assolutamente, nemmeno soltanto tortura. Si fanno i soliti nomi, e poi questo accoppiato con la prima pagina oggi del Wall Street Journal, che parlava della Federal Reserve seriamente preoccupata per le capacità di approvvigionarsi di dollari delle banche europee, ha contribuito a provocare il crollo che vediamo oggi. Allora, Claudia Segre, quindi alla fine, al di là delle mosse, chiamiamole così, meno convenzionali che può fare la Banca Centrale Europea, noi ci ritroviamo sempre allo stesso paradosso che avevamo tre anni fa circa, che bisogna arrivare alla piena recessione e quindi dopo la recessione ad uno scenario inflattivo perché la Banca Centrale Europea intervenga. Ma è possibile che non ci abbiano ancora pensato in questi tre anni? Ma sì, in effetti quello che diceva il dottor Cellini è vero, la missione dell'inflazione è praticamente quasi una guerra santa per la BCE, però vediamo che ci siamo ritrovati a cadere nello stesso errore forse, o nello stesso eccesso di zelo che abbiamo vissuto nel 2008, anzi nell'estate del 2007 con quel rialzo improvvido. Di fatto la realtà è che pur di non far andare l'inflazione si è voluto agire, però si agisce quando la crescita economica è forte e quando quindi c'è una crescita rampante. Qui siamo di fronte a una crescita molto debole e a paesi con grossi problemi di debito sovrano, quindi questa azione sui tassi è parsa perlomeno molto tirata nel suo significato, e ritengo che difficilmente si ripeterà, ma lascerà la BCE in una sostanziale impasse sui tassi fin quando la situazione non si calmerà. Ci chiedete in giornate come queste, al di là di chi vende e chi compra, un altro ascoltatore scrive: le iene sono all'assalto a comprare oggi o domani, poi lunedì a vendere le azioni, l'ho fatto io che non sono nessuno, ho guadagnato 3.000 euro in due giorni, beato lei. Segre, ci scrive un altro ascoltatore che addirittura dal lato opposto rispetto all'argomento con il quale abbiamo iniziato, dice: in realtà il blocco delle vendite allo scoperto è un disastro. Lei che dice? Diciamo che è un'arma che hanno in mano le autorità di mercato e che la usano nella speranza di arginare lo spettro di quello che ha appena citato lei nel precedente email che ha ricevuto, e quindi di questo avvitamento del mercato su se stesso creato proprio dai cosiddetti high frequency trader. Quindi questo problema di un'innovazione tecnologica che permette una concentrazione di attività e quindi su specifici mercati molto liquidi come quelli azionari, delle opzioni piuttosto che dei future, accelera l'effetto negativo di un trend ribassista, e questo chiaramente è di una magnitudo che non abbiamo mai visto nelle epoche passate, perché ovviamente la tecnologia lo permette e questo purtroppo nessun limite allo short selling lo frena. Naturalmente, grazie a Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex. A chi ci chiede, sono tornate le vendite allo scoperto? No, non sono tornate, sarebbero ancora bloccate. Grazie Claudia Segre, buonasera. Buonasera. E grazie anche a Maximilian Cellino del Cellino del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Buonasera Maximilian. Naturalmente io vi ricordo che ampie pagine domani sul Sole 24 Ore su questo tema si sta preparando spiritualmente il nostro Maximilian Cellino. Grazie Maximilian, buonasera. Grazie a voi, buonasera. E adesso parliamo più propriamente dei singoli titoli della giornata di borsa. Intanto vi do la chiusura, meno 6,15% per il FTSE MIB, meno 5,82% per il FTSE All-Share, Francoforte meno 5,82% in questo momento, Parigi meno 5,5%, Londra meno 5 punti percentuali o poco meno, meno 4,92%. L'America meno 3,72% sul Dow Jones, il Nasdaq meno 4,33%, lo Standard & Poor's 500 in calo del 3,96%. Guido Maurino, Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, poco da dire direi sulla giornata nel suo complesso, su quello che è successo. Se io ti direi che possiamo andare sui singoli titoli anche di Fiat, poi parleremo più avanti. Naturalmente a dominare la giornata milanese Fiat e le banche, direi tendenzialmente, anche se vedo che anche ST ha lasciato giù un 9,36%. Comunque iniziamo da Fiat e le banche brevemente. Sì, per quello che riguarda Fiat e le banche, per quello che riguarda Fiat, diciamo che come titolo ciclico ha perso. Oggi sono andati male, è andato male tutto il settore auto europeo, lo Stoxx perdeva fino a poco fa oltre il 7%, adesso stiamo aspettando la chiusura appunto dello Stoxx europeo. Per quello che riguarda Fiat, che ha già perso l'11,88%, Fiat Industrial il 13,31%, pesa anche un po' alcuni elementi specifici come le immatricolazioni. Ieri sono arrivati i dati sulle immatricolazioni di auto in Brasile, che rappresentano un mercato molto importante per Fiat, hanno fatto segnare un 4% di vendite in meno, con la perdita anche del primato del lingotto nel mercato brasiliano, e questo oggi ha contribuito ad aumentare le perdite sul titolo. Sui bancari le spiegazioni sono quelle di una possibile nuova crisi di liquidità delle banche europee. Questi rumor sono arrivati dagli Stati Uniti, e in particolare da un articolo del Wall Street Journal che citava la preoccupazione della Fed. Oggi il settore bancario è andato male un po' ovunque, anche Milano ne ha risentito. Sì, ne abbiamo parlato, adesso vi do qualche livello dei cali nel resto d'Europa per darvi un'idea. Société Générale a Parigi ha perso il 12,36%, Commerzbank a Francoforte ha lasciato sul terreno l'11,16%, a Londra Barclays giù dell'11,96%, Royal Bank of Scotland del 10,83%. Il quadro sulle banche lo abbiamo capito. Ho visto anche qualche altro industriale tra i titoli peggiori, mi riferisco a fattispecie appunto ST Microelectronics. Immagino risenta ancora in parte dell'effetto Dell, di una debolezza tecnologica in genere, no Guido? Sì, oggi risente soprattutto dell'andamento generale, non ci sono notizie particolari. Anche il settore della tecnologia oggi è stato particolarmente penalizzato in Europa, meno 6,43% l'indice settoriale, per cui si è mossa, diciamo, in linea con i suoi competitor. Sì. E questo meno 9,3 di Finmeccanica, ci sono motivi particolari? No, continuano, sono arrivati negli ultimi giorni alcuni downgrade da parte degli analisti che appunto consigliavano di vendere il titolo, nessun'altra notizia particolare. Molto pesante, come sempre accade in questi casi, in queste situazioni delle quali vi abbiamo parlato anche poco fa, insomma, ipotesi pre-recessive, molto pesante il settore delle costruzioni, i cementieri, Guido, no? Sì, andavano già male a inizio giornata, quando ancora le borse avevano perdite più contenute, risentendo dei conti presentati dalla Svizzera Holcim. Il gruppo elvetico ha annunciato di aver realizzato il 4,2% di profitti in meno nel primo semestre, con un secondo trimestre particolarmente pesante. La notizia è andata a riflettersi appunto sia su Impregilo meno 8,66%, sia su Buzzi Unicem meno 8,09%, anche perché anche sul fronte del mercato immobiliare americano sono arrivate brutte notizie, con un calo del 3,5% delle vendite di case a luglio, che ha contribuito, insomma, ad accelerare le vendite un po' su tutto il comparto. Questo è il quadro. Il titolo migliore sul FTSE MIB è Bulgari, meno 0,16%, ma non deve ingannare, perché rimane a ridosso del prezzo di OPA di Alvemash, se non sbaglio, che è 12,21 forse, Guido? 12,25. E mi sembra che tengano gli energetici nella giornata di oggi. È vero che hanno perso parecchio nei giorni scorsi sulla vicenda della Robin e non della Tobin Tax. Sì, oggi hanno tenuto un pochettino meglio degli altri, proprio perché avevano già perso molto. In generale in Europa le utilities hanno retto abbastanza, lo stock settoriale appunto faceva segnare un meno 3,5%, a dimostrazione che le vendite si sono concentrate su titoli, oltre ai bancari, su titoli più ciclici, ecco, di non le utility come sì. A2H appunto ha perso l'1,69%, o Terna l'1,86%. Sì, Snam Rete Gas il 3,5%, Enel Green Power il 2,6%, e tenete presente, vi stiamo dando i titoli migliori sul listino insieme a Mediobanca, che ha perso il 2,1%, UbiBanca il 3,5%, Parmalat il 4%, Telecom Italia il 4,15%, Diasorin il 4,6%, Ansaldo il 4,77%, e questa è la decina di titoli migliori sul FTSE MIB, questo giusto per darvi un'idea. Oggi, parlando di titoli minori, è arrivata la chiusura, la famosa e tanto attesa chiusura dell'operazione sulla Roma Calcio. Sì, Thomas Di Benedetto ha firmato, da oggi è ufficialmente il nuovo azionista di maggioranza della Roma. La notizia era ampiamente attesa, comunque diciamo che il titolo oggi ha festeggiato con una borsa che cedeva il 6%, ha guadagnato l'1,05%. Nell'operazione, come era noto, Unicredit resterà comunque azionista di minoranza, e per il momento ha escluso l'ipotesi di vendere la sua quota. Ultima nota, le valute, oggi il valutario, oggi Guido? Oggi il valutario ha segnato un rafforzamento del dollaro, l'euro sul dollaro scambia 1,4317 in questo momento, diciamo che in questa fase gli operatori si stanno riportando molto su una moneta come il dollaro. Nel frattempo è piuttosto stabile invece l'andamento del rapporto di cambio tra l'euro e il franco, altro tema interessante di questo periodo, è 1,13,19, dopo aver toccato un minimo di 1,12,37 nell'arco della giornata, un massimo di 1,15, quindi tutto sommato abbastanza stabile. Grazie a Guido Maurino di Radio Corriere Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. parliamo della manovra economica varata dal governo. Come sapete, ieri si è riunito il Senato, come vi abbiamo raccontato, riunito per modo di dire, erano 11 senatori. Chiaro, era un atto formale, dovevano solamente riunirsi per incardinare, come si dice in gergo, il decreto. Detto ciò, appunto, le commissioni andranno a riunirsi con calma martedì prossimo e poi il 5 settembre inizia la discussione in aula. Nel frattempo proseguono le discussioni e, se vogliamo, anche le chiacchiere, le dichiarazioni sul tema della manovra. Allora, ieri si è diffusa l'indiscrezione in serata tramite le agenzie, da fonti autorevoli della maggioranza, che piuttosto che ragionare su una nuova imposizione per chi ha già scudato i capitali, ossia li ha fatti rientrare dall'estero, cosa che avrebbe creato più di qualche problema tecnico, come ieri vi abbiamo raccontato, lo ribadiamo, parliamo di problemi tecnici, in realtà si pensava ad un nuovo scudo fiscale, ad una nuova edizione dello scudo fiscale. E però questa ipotesi è stata smentita dal ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli, che dice testualmente: è una realtà virtuale che nella manovra non c'è, dice, ne parlano i giornalisti e quindi se ne parla. In realtà non c'è nessuna ipotesi di questo tipo. Allora, girano altre ipotesi di modifica, ritocchi dell'IVA, revisioni dei tagli a comuni e province, anche qua una specifica richiesta della Lega, il TFR in busta paga, questa è un'idea che ha lanciato il leader leghista Umberto Bossi. Entro i primi settembre è prevista una riunione straordinaria dei governatori, dei presidenti delle regioni, mentre l'ANCE l'ha già annunciata per il 24 agosto. Allora, oggi tocchiamo l'ipotesi TFR che ritorna in busta paga. Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino, liquida la proposta di Umberto Bossi come una sciocchezza. Sentiamola, intervistata da Valentina Furlanetto. Molto contraria, perché contrasta con tutto quello che è stata anche la politica previdenziale finora. Quella politica era: riduciamo le pensioni pubbliche, incentiviamo la gente o forziamola a lavorare di più e diamo loro uno strumento, oltre che qualche beneficio di tipo fiscale, per costruire delle pensioni. La fonte di finanziamento principale era proprio il TFR. Probabilmente la preoccupazione alla base poteva essere la mancanza di domanda, ma più facilmente è una sorta di contentino così mostrato ai lavoratori rispetto a manovre che certamente li penalizzano. E quindi il fatto di dire avranno tasse più alte, avranno servizi che costano di più, perché i comuni sicuramente ribalteranno le strette che subiscono, finanziarie che subiscono sugli utenti dei servizi, gli diamo questo contentino e voilà, magia, vi facciamo raddoppiare i salari. Ma chi ci crede? I lavoratori sono mica così stupidi. Ma in un periodo in cui le famiglie hanno un problema magari anche di liquidità, non potrebbe il TFR in busta paga aiutare i consumi, stimolarli? Potrebbe anche in definitiva dare un piccolo impulso alla domanda, nel senso che c'è sicuramente una parte di famiglie, una frazione di famiglie che proprio manca di soldi. Se gliene metti in tasca li spendono, questo può capitare, ma sicuramente non ha nessuna delle caratteristiche di una politica lungimirante, perché comunque domani quei soldi che servivano per la tua pensione, che avrebbero potuto essere destinati ad aiutare l'acquisto di una casa per te o per i tuoi figli, a ristrutturare una casa, quei soldi non ce l'avrai più. Non è una misura di crescita, è una misura, intanto vorrei dire, un pochino subdola, perché proprio fa percepire una sorta di regalo quando regalo proprio non c'è, perché sono soldi messi da parte, finanziati dai lavoratori per il loro domani. Parlando invece della possibilità che hanno i lavoratori da qualche anno di spostare il proprio TFR, la propria liquidazione nei fondi che aiuteranno la nostra pensione ad essere un po' più ampia in futuro, gli sconvolgimenti borsistici degli ultimi tempi hanno intaccato questi fondi e quindi le nostre future pensioni? Beh, sicuramente un mercato finanziario che non funziona non è un incentivo alla previdenza integrativa. Ma c'è un rischio per le pensioni italiane come quello che ci fu nel 2008 per le pensioni degli americani con la crisi del subprime? Nella situazione nostra questo è fuori discussione, perché noi abbiamo intanto relativamente pochi fondi pensioni e quindi quella che è chiamata la ricchezza pensionistica degli italiani è ancora sostanzialmente pubblica, ce n'è poca di privata. In secondo luogo questi soldi dei fondi pensioni sono da noi impiegati molto poco sul mercato azionario e impiegati molto in titoli del debito pubblico italiano o in obbligazioni, e diciamo che è quest'ultima tempesta finanziaria che ha indebolito questi titoli, però la prospettiva è di lungo termine, quindi qui bisogna sperare che l'Europa, anche l'Italia ovviamente, ma è soprattutto una questione europea, come stiamo vedendo in questi giorni, adotti delle misure che possano portarci fuori da questa crisi. Fuori da questa crisi la previdenza integrativa continua a essere una cosa importante per i lavoratori. Ancora sulle vendite allo scoperto intanto, perché non dite le cose come stanno, ci scrive Maglio, le vendite allo scoperto riguardano solo i finanziari e gli assicurativi, su tutto il resto del listino si può vendere allo scoperto, indici compresi. È vero, la decisione presa dalla Consob riguarda bancari e assicurativi, però tenga presente in una giornata come oggi, Intesa San Paolo, che ne fa parte, ha perso il 9,26%, il Banco Popolare il 7,6%. Fondiaria SAI il 12,36%, la Popolare di Milano il 7,43%, Unicredit il 7,41%. Quindi evidentemente non ha funzionato. Noi però adesso veniamo all'andamento di altri titoli, quelli di Fiat, come vi preannunciamo poco fa, perché non è solo la giornata di oggi che è stata particolarmente negativa per il lingotto. Fiat Industrial comunque ha perso il 13,3%, Fiat SPA, quella che produce le auto vere e proprie, 11,88%, la controllante Exor meno 9,08%. Tra l'altro Fiat Industrial è il titolo peggiore sul listino sul FTSE MIB oggi. Saluto Nino Lobianco, che è presidente di Business Integration Partners, una società di consulenza. Buonasera Lobianco. Buonasera. Allora, i segnali che sono arrivati ieri dal lato del Brasile sono tutt'altro che confortanti. A fronte di un progresso del mercato dell'1,7%, Fiat, che tra l'altro era la prima per quota di mercato in Brasile, scende dal 23,7% al 22,3%, calano le immatricolazioni del 4,4%, appunto a fronte di un mercato che sale dell'1,7%, e Volkswagen diventa il primo produttore di automobili brasiliano. È un segnale duro per l'azienda. Sì, è un segnale duro, peraltro ce lo si poteva aspettare, nel senso che la capacità produttiva della Fiat in Brasile è plafonata, cioè ad una domanda che sta crescendo loro non sono in grado di fare fronte con produzione locale, e l'importazione è durissima e costosissima. Quindi si tratta di aspettare che ci sia nuova capacità produttiva, stanno facendo degli sforzi, il nuovo stabilimento perderà molto tempo per essere pronto, e quindi la rincorsa a Volkswagen e ai tedeschi dovrà essere rinviata. Questa è una delle cause non l'unica, ma una delle tante cause che contribuisce al deprezzamento del titolo Fiat auto in borsa in questo periodo. Ce ne sono tantissime altre, fra l'altro. Per esempio? Ma per esempio, sul breve termine c'è il fatto che avendo produzione e vendita soprattutto in mercati molto maturi come l'Italia, in parte l'Europa, e abbiamo visto che il Brasile non ha capacità, non hanno in questo momento i modelli adeguati per contrastare la concorrenza, e direi che ci vuole ancora un po' di tempo, nel senso che l'integrazione attesa con la gamma USA ritarda perché i prodotti non sono ancora testati sul mercato, perché la commercializzazione non è ancora abituata a vendere questi nuovi modelli, perché la logistica tanto di fabbricazione che di trasporto e di distribuzione è ancora complicata. La Fiat non è presente nei mercati emergenti, cioè non è presente in Cina, non è presente in Russia, è poco presente in India con prodotti Tata di basso valore aggiunto, quindi sta perdendo delle opportunità a fronte del fatto che invece i tedeschi e gli altri che hanno gamma di lusso e questi mercati emergenti riescono a cogliere. Mi scusi Lo Bianco, quest'ultimo punto lei ha sottolineato mi sembra un handicap a lungo termine, perché prima abbiamo parlato degli handicap a breve, no? A breve ce ne sono altri, c'è il fatto il no, però a me interessa questo fatto, perché sì. È, dal punto di vista industriale è forse più importante il fatto di non essere presenti su quei mercati. Questo richiederà del tempo, nel senso che loro ci stanno pensando, ma prima di arrivare a risolvere questi problemi ci vuole tempo, quindi ci vorranno 3-4 anni, e questa è una delle cause per cui la speculazione sta giocando contro il fatto che non siano presenti sui mercati ricchi, quelli dove stanno facendo i soldi Mercedes, Audi, BMW, il fatto che abbiano questa difficoltà di integrazione con gli USA, il fatto che il debito che dovrebbero contrarre per acquisire l'altro 40% della Chrysler in mano ai sindacati richiederebbe uno sforzo e un indebitamento incredibile per la struttura finanziaria del gruppo. Quindi ci sono dei motivi di lungo termine. I motivi di breve sono che poi la 500 ha un flop forse temporaneo negli USA, perché non ha la distribuzione, non ha i dealer a sufficienza, perché ci sono una serie di problemi basati su difficoltà di mercato in alcune aree dove loro stavano cercando di sperimentare una presenza, mercati dell'est e così via, perché poi ci sono i contratti che sono in discussione, i contratti che sono stati firmati tanto a Pomigliano che a Mirafiori in questo momento di incertezza, in cui non si sa se continueranno a investire, non investire e così via. C'è molta cassa integrazione, lavoro scarso, quindi diciamo che le cause sono numerosissime. Le cause sono moltissime. Cioè, grazie a Nino Lo Bianco. Adesso dobbiamo chiudere. Presidente Business Integration Partners, buonasera. Grazie. Noi chiudiamo qui questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione, a Roberto Scaltritti in regia, come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.